24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui, cari ascoltatori, ben ritrovati, le 7 e 20 minuti. Allora, siamo in diretta fino alle 9 anche oggi. Siamo anche su Twitter, @AlinoMilan, mi trovate, oppure @24mattino. Siamo anche su Facebook, dovunque ci trovate, insomma, con la nostra pagina 24 mattino. Oggi parleremo ancora di partiti che tentano di rinnovarsi, almeno per quel che riguarda il finanziamento. Con vi ricordate, dovevano cancellare il finanziamento in 448, poi no, volevano solo la trasparenza. Ci sono partiti che ora dicono cancelliamo il finanziamento pubblico e ci appoggiamo solo ai privati, altri che vogliono appoggiarsi ai privati ma defiscalizzando gli aiuti privati, altri come il PD che dice dimezziamo di colpo il finanziamento. Faranno qualcosa? Chi lo sa? Lo scopriremo e ne parleremo oggi, torneremo su questo tema. Intanto questo è quello che faremo dalle 8.20, ora ci concentriamo sulla lettura dei giornali che trovate in edicola. È giovedì 26 aprile, uno sguardo ai titoli, il Sole 24 Ore apre sulle borse, effetto utili sulle borse, Milano più 2,91% in testa. Mentre il tema della crescita raccoglie il maggior numero di titoli di prima pagina per il Corriere della Sera. Crescita, Merkel dà un segnale. Per Repubblica, Draghi, un patto per la crescita. La Stampa, più coraggio per la crescita. Il Secolo XIX, crescita, asse Roma-Berlino. Il Messaggero, Roma-Berlino, patto anticrisi. E Avvenire, Berlino apre all'Italia, puntiamo alla crescita, dunque la mossa della Germania. Mentre per il giornale Libero, questa vicenda da cui partiremo tra poco, Monti compra 400 auto blu, questo è il titolo del giornale, così anche Libero, viva la sobrietà, le 400 auto blu di Monti. Il Fatto Quotidiano invece, Napolitano, demagogo, Grillo, sei una salma. Questo in sintesi lo scambio di battute ieri. Per il Manifesto, liberi tutti, il dopo 25 aprile, e anche l'Unità, il vento del nord, insomma la festa della resistenza. Allora, come 400 auto blu? In tempo di austerity non ci si voleva credere, non ci si può credere, non volete crederci, e invece è proprio così. Come detto, Libero Giornale lo mettono in prima pagina come titolo, ma che sacrifici, Monti compra 400 auto blu. Per Libero invece il sobrio Monti compra 400 auto blu. La vicenda è anche sul Corriere della Sera, la leggo da pagina 6, Maria Antonietta Calabrò, lo Stato compra 400 auto blu. Ebbene sì, rivolta sul web, lo Stato vuole acquistare altre auto blu, sembra una barzelletta. E invece è così, almeno altre 400 nuove berline di media cilindrata, cioè fino a 1006 di cilindrata. Ma il numero di veicoli potrebbe aumentare anche di un quinto, quindi di ulteriori 80 unità nel giro di un anno, per una spesa di poco meno di 10 milioni di euro. Il bando di gara non solo è già stato emesso dal Ministero dell'Economia, ma il termine per presentare le offerte è anche già scaduto lo scorso 8 marzo. Quindi la procedura è in fase estremamente avanzata, e questo nonostante il parco macchine della pubblica amministrazione sia arrivato, secondo il Formez, il Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l'ammodernamento della pubblica amministrazione, a quota 60.000. Cioè ci sono 60.000 auto a disposizione, ma ce ne vogliono altre 400, questo almeno secondo il bando. Nei giorni scorsi il bando è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare da parte di un deputato dell'Italia dei Valori, Antonio Borghesi, che ha chiesto delle spiegazioni al vice ministro dell'economia Vittorio Grilli, e sta di fatto che questa è la notizia, lo Stato che compra altre 400 auto blu. Ma vogliamo rimanere in tema di casta, visto che poi parleremo anche di taglio e rimborsi pubblici. Oggi a pagina 2 di Libero trovate questa vicenda che è riepilogata con questo titolo: la casta si taglia gli stipendi ma poi si restituisce i soldi. C'è il richiamo anche in prima pagina: il taglio dello stipendio dei parlamentari finisce in un fondo a disposizione di chi? Dei parlamentari stessi. È Franco Bechis, il vice direttore di Libero, che ne scrive a pagina 2. C'è un fondo congelato nei due rami del Parlamento che a fine legislatura arriverà a 21 milioni di euro e che rischia di trasformarsi in cosa? In una liquidazione extra da 22.000 euro a testa per tutti gli attuali deputati e senatori. Il fondo è stato varato a fine gennaio dagli uffici di presidenza di entrambi i rami del Parlamento e quando è stato annunciato un taglio di 1.300 euro al mese dell'indennità lorda degli onorevoli. Tra l'altro Bechis ricorda che il taglio è stato spacciato per un taglio con tanto di comunicato stampa, ma se vi ricordate non era in realtà un taglio, si trattava di un mancato aumento nella busta paga di deputati e senatori con il cambio del regime del vitalizio. Sarebbe aumentata da 5.000 a 6.300 euro la indennità netta al mese grazie all'approvazione del nuovo regime previdenziale e i deputati e senatori hanno deciso almeno di rinunciare a quell'aumento e quindi è stato spacciato come taglio. Ebbene, ma dove sono stati messi tutti questi soldi? Sono 819.000 euro di mancato aumento che vengono accantonati appunto in un fondo, questo alla Camera, 819.000 euro al mese, al Senato la somma è esattamente la metà, 409.500 euro al mese. Alla fine della legislatura i due fondi ammonteranno rispettivamente a 14 milioni alla Camera, 7 al Senato, dunque 21 in totale. A che serviranno questi fondi? 21 milioni di euro messi lì. Ebbene, è stato chiesto e i questori della Camera e del Senato hanno risposto che al momento una decisione non è stata presa. Forse verranno utilizzati per pagare le eventuali condanne derivanti dai ricorsi dei parlamentari che ricorrono contro le modifiche delle regole sul vitalizio. Ve lo ricordate? Sono 33 parlamentari, 32, che avendo cambiato e viste cambiate in corsa le regole per l'assegnazione del vitalizio, da 50 è stata spostata l'età a 60 anni, hanno fatto ricorso. E se dovessero vincere il ricorso? E forse quel fondo lì verrà utilizzato proprio per pagare il loro ricorso vinto. E dunque andranno questi 21 milioni ad altri ex parlamentari. Ma un'altra ipotesi che circola, visto che non se ne sa nulla della destinazione finale di questi 21 milioni, è questa. Potrebbe essere utilizzato alla fine della legislatura dando un assegno ulteriore di fine mandato ai parlamentari di 22.000 euro a testa. Quindi, insomma, si sono accantonati 21 milioni di euro di fondo per forse redistribuirselo alla fine della legislatura. In tutto questo, come interpretare la lettera che alcuni parlamentari hanno spedito alla Presidenza della Camera? Sono un gruppo di deputati del Partito Democratico, pubblicata questa lettera sull'Unità, pagina 12 e 13. Così si possono ridurre ancora le spese della Camera. Sono l'onorevole Zampa, Corsini, Brandolini, D'Incecco, Viola, Sant'Agata, Sbrollini, Bucchino, Ginoble e Codurelli. Questi sono gli onorevoli che hanno spedito a Fini, caro Presidente, cari questori, caro Ufficio di Presidenza. Dicono è vero, sono stati tagliati i vitalizi, ma è ancora più incredibile che sia stata assunta una decisione come quella relativa al trattamento degli ex presidenti della Camera. Vi chiediamo perciò, in vista della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, di ripensare questa scelta e annunciare l'avvio di una revisione complessiva delle spese volta a individuare l'esistenza di eventuali sprechi ed eliminarli. Insomma, vi chiediamo di voler procedere a un'attenta, eccola qui, spending review della Camera, che poi io sono sicuro firmato poi da tutti questi deputati. La lettera la trovate sull'Unità, pagina 12 e 13. Sono sicuro che tutti gli italiani avrebbero una soluzione semplice, che gli stessi politici hanno già più volte proposto e non faranno mai. Dimezziamo i parlamentari, è già un bel taglio di spesa, c'è. Ci si mette 5 giorni, si fa una legge, se sono tutti d'accordo, lo si faccia e stop. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:35 minuti, una delle parole che troverete più gettonata oggi sui titoli dei giornali è quella della crescita. Oh, finalmente, cari ascoltatori, un po' di ottimismo dopo che i salari sono ancorati tra un po' al 1800 e quant'altro, l'inflazione, i consumi fermi, eccetera. La crescita. Allora, pare ci sia stata una svolta che Dino Pesole racconta a pagina 5 del Sole 24 Ore sull'asse Roma-Berlino, Italia-Germania, asse sullo sviluppo. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 5. Scrive Dino Pesole: da un lato il perdurare e perfino l'aggravarsi della crisi, la persistente volatilità dei mercati, evidente reazione alla carenza di iniziative politiche in Europa. Dall'altro le novità che si annunciano nel panorama politico europeo dopo la vittoria al primo turno alle presidenziali francesi di Hollande, il terremoto politico in Olanda, l'affermarsi in Europa di movimenti estremisti e xenofobi, le imminenti scadenze elettorali in Germania. Insomma, tutto questo e tutti questi elementi potrebbero riaprire i giochi nelle cancellerie europee, aprendo una breccia in direzione delle fondamentali politiche per la crescita. L'apertura è giunta ieri dal cancelliere tedesco Angela Merkel, non è priva di significato che a muoversi sia proprio il paese che ha imposto come strategia anticrisi l'esclusiva arma della ferrea disciplina di bilancio. Allora, questa apertura, tanto che in un retroscena di Repubblica, firma Alberto D'Argenio, che trovate a pagina 3, c'è proprio l'ottimismo di Palazzo Chigi. I tedeschi sono pronti alla svolta. La Germania ha compreso che il rigore, per quanto fondamentale, deve essere propedeutico a crescita e occupazione. Questa è la sintesi del pensiero del premier Mario Monti. Abbiamo assistito a una sequenza di interventi molto positivi, dice chi lavora con lui. E oggi la convinzione italiana, la Germania, ma anche l'amministrazione Obama riconoscono che anche i virtuosi devono contribuire ad aggiustare l'economia, aumentando la propria domanda interna, riequilibrando i rapporti tra import e export, aprendo il proprio mercato ai prodotti e ai servizi che vengono da altri paesi europei. Dunque, una svolta della Merkel. Se è la svolta perché la Merkel si sente isolata, perché sta perdendo uno dei due elementi dell'asse portante, vale a dire Sarkozy, che è in difficoltà, potrebbe non essere rieletto, potrebbe anche essere questa la spiegazione. Sta di fatto che la Germania vuole uscire un po' dall'angolo del rigore ferreo e dire bisogna anche spingere sulla crescita. Ed ecco allora che anche qui un altro articolo denso di ottimismo lo scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera, a pagina 7, cioè denso di ottimismo, che trasuda l'ottimismo di Palazzo Chigi, il premier e la tentazione della fase 2 incentrata su spending review e riforme. Vabbè, io questa parola, questa espressione spending review ce l'ho già sul gozzo, ormai appena la sento mi viene veramente nervoso abbastanza incipiente, però questo è la spending review. Fino ad oggi è stato un esercizio quasi cattedratico, scrive Francesco Verderami, perché il governo era concentrato su altri dossier nel tentativo di fronteggiare l'emergenza economica, ma ora il capo del governo è consapevole che non può più andare avanti a colpi di tasse, che un ulteriore intervento sulla leva fiscale non verrebbe retto dal paese dai partiti della sua strana maggioranza. Dunque l'idea di Monti è di procedere per gradi, partendo dall'abbattimento delle spese di gestione, una manovra a tappe che potrebbe peraltro servire per coprire eventuali d'urgenza, ad esempio sulla riforma del mercato del lavoro. Le relazioni inviate a Monti segnalano che l'atmosfera è cambiata, il tema della crescita è già sul tavolo, la Germania sta gradualmente abbandonando la politica del rigore, insomma è da qui anche l'idea da parte di Monti di rilanciarsi. Intanto segnatevi questa notizia: il vice ministro Vittorio Grilli, vice ministro dell'economia, è in un viaggio in Cina, ne parla il Sole 24 Ore a pagina 9. Grilli in Cina per collocare i BTP. Questo sarebbe infatti, secondo fonti locali, il motivo vero dell'incontro tra Grilli e Gao Xinqing, vale a dire il numero 2 e futuro numero 1 del fondo sovrano cinese China Investment Corporation. L'obiettivo è l'oggetto dei colloqui, è il collocamento dei BTP nei portafogli cinesi. L'attenzione dell'Asia sull'Italia resta elevata, ma altrettanto alta è la preoccupazione degli asiatici sui recenti sviluppi europei, non da ultimo quello dell'allargamento degli spread tra i BTP italiani, i bonus spagnoli e i Bund tedeschi, e poi anche per le elezioni presidenziali francesi. Dunque, in Cina per cercare di collocare i nostri titoli di Stato, così scrive il Sole 24 Ore. E la politica italiana? Beh, la politica italiana, insomma, ieri il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nella festa del 25 aprile, ha detto una cosa molto chiara, tra le tante cose, e cioè che i partiti si devono rilanciare, bisogna togliere il marcio che c'è nei partiti, ma questo, ecco, lo sentiamo da tanto tanto tempo. E poi ha detto: la politica si rilancia con la vera politica, stop e no ai demagoghi di turno. È chiaro che il riferimento era, è evidente, a Beppe Grillo, anche se non è mai stato nominato, non è mai stato citato. Bisogna impegnarsi per estirpare il marcio, dunque leggo dall'articolo di Marzio Breda a pagina 2 del Corriere della Sera. I partiti devono ritrovare lo slancio ideale, tensione morale, capacità di proposta di governo, ma ecco qui, non abbandonarsi a una cieca sfiducia nei partiti come se nessun rinnovamento fosse possibile, soprattutto non dare fiato a qualche demagogo di turno. Tanto che oggi tutti i giornali, come Pierluigi Battista, per esempio, sul Corriere della Sera fa un excursus dei movimenti che hanno dato voce alla gente di strada, che sono partiti dal basso. Vabbè, quello più famoso è proprio l'Uomo Qualunque, no? Di Guglielmo Giannini, che arrivò a esprimere nel 1946 anche diversi parlamentari. Dall'Uomo Qualunque al Movimento 5 Stelle, una breve storia delle spinte antisistema, così sul Corriere della Sera Pierluigi Battista. Beh, Grillo come ha risposto? Ha risposto non credo con un suo comizio, perché ieri non c'era, ma sul blog: il corteo delle salme ha onorato la resistenza. L'immagine cadente di Fini, Monti, Napolitano e Schifani rappresenta l'Italia. I partigiani oggi forse riprenderebbero in mano la mitraglia. Così Beppe Grillo, tanto che il Fatto Quotidiano sintetizza appunto in prima pagina: Napolitano, demagogo, e Grillo, sei una salma. Ecco, questo è il clou della politica di oggi sui giornali. C'è anche un articolo di Jacopo Iacoboni, il re dell'antipolitica, Grillo e l'arte della ripetizione, lo trovate a pagina 6 della Stampa. Si racconta come Beppe Grillo dica un po' le stesse cose. Lui stesso dice: sono 25 anni che parlo di queste cose, bastava già vedere i miei spettacoli. E Iacoboni racconta un po' tutte le varie battute intercettate negli ultimi comizi, sono battute abbastanza fotocopia, tipo sulle tasse: se le pagassimo tutti ruberebbero il doppio, non cambierebbe nulla. O sull'IMU: per cercare di calcolarla il mio commercialista è stato costretto ad andare in analisi. Rigor mortis, il contabile che fa uno più uno e smantella lo Stato sociale. E i grandi leader di partito? No, sono dementi, dilettanti allo sbaraglio. Questo, alcune delle battute, dice Beppe Grillo: non sono un populista, dico lo stesso da 25 anni, ma certo ora fa tremare i partiti. Anche perché racconta in un'intervista il politologo Giovanni Sartori sul Fatto Quotidiano, intervistato a pagina 3, interessante questa intervista, Sartori dice: la sfiducia questi partiti se la meritano, corruzione, sprechi, certo c'è ancora da sperare, ma la sfiducia è giustificata dai partiti che non meritano fiducia, dice, con quello che potrà sembrare una banalità, ma non lo è, Giovanni Sartori. Se vogliono riconquistarla devono ripulirsi. Uno degli aspetti più infelici dell'ultima fase politica è l'estrema e vergognosa corruzione. Siamo a livelli medio orientali. Così sentenzia Giovanni Sartori. E infatti a leggere i giornali ci sono ancora inchieste, Finmeccanica, la vicenda Formigoni, insomma, inchieste da ovunque ti giri, sui giornali sono raccontate così. E allora, Finmeccanica, la Lombardia, queste sono le due inchieste maggiori sui giornali. Per il Corriere della Sera ora, e anche per Repubblica, sono spuntate 6 Maserati e la villa. L'accusa di l'ex dirigente di Finmeccanica Borgogni all'amministratore delegato Orsi di avere intascato delle mazzette, di avere raccolto almeno 10 milioni di euro sarebbero finiti alla Lega, ma ora racconta per esempio Fiorenza Sarzanini a pagina 14 del Corriere della Sera: ci sono auto di lusso, lavori di ristrutturazione di una villa in Liguria, soldi che sarebbero stati incassati gonfiando il valore degli appalti, ora ci sarebbero anche soldi finiti a Comunione e Liberazione, secondo Borgogni, l'ex numero due di Finmeccanica che sta parlando. Più volte, tra l'altro, racconta Fiorenza Sarzanini, si è parlato del rapporto stretto tra lo stesso Orsi e il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, indicato come uno dei suoi sponsor. Ci sarebbero anche 6 Maserati che sarebbero entrate nella disponibilità di Giuseppe Orsi, intestate però al suo autista. Ah, però, se fosse così, l'autista più ricco d'Italia, con 6 Maserati intestate. Vetture di grande valore che il manager avrebbe ottenuto dai proprietari di alcune società che lavoravano con Augusta Westland quando lui ne era amministratore. 3 auto sarebbero rimaste in Italia, una risulta spedita a Londra, altre 2 negli Stati Uniti. E poi lavori nelle ville, eccetera. Roberto Maroni, uno dei 3 triumviri della Lega, fa un'intervista a Repubblica per confutare tutte le accuse. Gettano fango sulla Lega ma vogliono svendere l'azienda, racconta a Rodolfo Sala, intervista la trovate a pagina 10. Hanno tirato in mezzo la Lega, ma l'obiettivo vero è lo spacchettamento di Finmeccanica, tutto a favore dei nostri competitors stranieri, i francesi e gli inglesi per l'elicotteristica e i tedeschi per altri settori. Mi limito a osservare la situazione, Finmeccanica rappresenta i gioielli di famiglia ma è in crisi, racconta Maroni, dunque va aiutata e salvaguardata ma senza mettere in croce l'amministratore delegato Orsi, caduto vittima della vendetta di chi non lo voleva. E poi respinge tutte le accuse con questa frase, dice Maroni, riguardo alle accuse sulla Lega. Lo diceva Falcone: dal sole mi riparo, dall'acqua mi asciugo, ma con il fango diventa tutto più difficile. Questo è fango puro, come ho cominciato a dire fin dall'inizio. I suoi schizzi si porteranno e ci porteranno dei danni alle prossime elezioni amministrative. Lo mettiamo nel conto, ma poco importa. Non importa perdere voti, il nostro traguardo vero è il congresso federale a fine giugno. E poi le politiche 2013, ne vedremo delle belle senza fare sconti a nessuno. Dunque, insomma, rialza la testa Roberto Maroni. Mentre un altro personaggio politico da qualche giorno sulla graticola in crisi è Roberto Formigoni, il presidente della Lombardia. Oggi devo dire che Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio fa un lungo editoriale in difesa da una parte di Formigoni, ma anche di critica, in difesa nel senso che il titolo è Gossipari e Formigoni, scrive Giuliano Ferrara. Formigoni dice che vogliono fotterlo, Repubblica vuole fotterlo, la sinistra fa campagna elettorale sulla pelle sua e della funzione politica e pubblica che riveste, Repubblica è un giornale gossiparo che è un linciaggio pubblico e privato, dice Formigoni, lui si sente vittima di un'ingiustizia e in questa prima parte Ferrara gli dà anche ragione. Poi però le critiche, Formigoni doveva andarsene dalla Lombardia già da tempo e lo sapeva. Doveva assicurarsi una successione dopo tanti anni, doveva prendere atto del fatto che la sanità privata è una brutta bestia impazzita, che un pezzo dell'eccellenza lombarda a San Raffaele è annegato in una sconcertante storiaccia di debiti, sconcezze culturali, civili e amministrative. E soprattutto nervi a posto, non si dice sprezzantemente in TV che le accuse vengono da uno che sta in galera, chiunque egli sia. Sì, perché tra l'altro ha accusato una persona, dice il mio accusatore sta in galera, tale Grenci, e Grenci dalla Svizzera oggi su Repubblica dice non sono in galera, sono libero e adesso ne vedremo delle belle. Comunque, continua Ferrara, non si dà dello sfigato a un giornalista che non fa le vacanze di gruppo esotiche, stupide e costose, si riconoscono le debolezze personali, non si dice parola di re, non si attribuisce a Don Verzè, pace all'anima sua, Laminetti, che fino a prova contraria è cittadina e peccatrice come gli altri. Non ci si impegola in storie di fatture perdute, non si proclama che vecchi amici arrestati li si conosceva a stento, non si cade nella trappola, si alternano difesa leale contrattacco politico con sapienza e lungimiranza. Insomma, dice Ferrara, elenca quelle che sarebbero le colpe di Formigoni. E soprattutto conclude, niente materassi su cui distendersi in pubblico per valorizzare l'industria del mobile italiano. Non è il momento. Vi segnalo poi una interessante polemica che c'è tra il ministro Elsa Fornero, il ministro del welfare, e Vittorio Feltri. Vittorio Feltri aveva scritto qualche giorno fa, il ministro Elsa Fornero ha detto in un convegno, cari genitori, invece di preoccuparvi per dare la casa ai vostri giovani, preoccupatevi perché studino e fate in modo che prendano una laurea. Ebbene, oggi o gli studi o la casa, questo è il tema. Elsa Fornero prende carta e penna e scrive: caro Feltri, senza ovviamente la pretesa di farle cambiare idea circa il suo convincimento che io abbia la tendenza a comportarmi da maestrina, anzi correndo il rischio di rafforzare tale immagine, mi preme chiarire che la mia posizione è frutto di uno studio condotto in collaborazione con due ricercatrici dell'Università di Torino dal titolo «Il mattone in Italia vale più dell'istruzione?». La ricerca esprime il concetto di sostituibilità tra l'istruzione dei figli e l'acquisto di una casa di abitazione, complici anche le imperfezioni del mercato dei mutui. Lungi dal desiderio da esprimere giudizi, la ricerca mette in evidenza uno dei tanti problemi che affliggono questo paese, con viva cordialità, con lettera pubblicata in prima pagina. La replica poi di Feltri, che ringrazia per la cordialità della lettera, eccetera, ma poi Vittorio Feltri fa un lungo editoriale. Il titolo è «La laurea invece della casa è un insulto alla miseria». La Fornero insiste: è più conveniente investire sui figli che nel mutuo, mentre lo Stato non crea più alloggi popolari. Scrive Feltri: qualsiasi famiglia ha bisogno di un alloggio, possibilmente dignitoso, ma trovarlo affitto compatibile con redditi medio-bassi è un'impresa. Il mercato non offre opportunità, il canone minimo si aggira sui 1000 euro, pare uno stipendio quasi. Allora che cosa fa? Le persone ovviamente comprano un quartierino, ovviamente col mutuo, che la banca concede a chi abbia un posto fisso, ma non gratis, rate ventennali, asfissianti, che vale la pena di affrontare perché, estinto il debito, l'immobile, finalmente libero da ipoteche, diventa di proprietà dell'intestatario. Va da sé che in assenza di abitazione a canone umano, una percentuale elevata di italiani si è obbligata ad abbattarsi con mutui da strozzo. D'altronde, se non hai due stanze dove pernotti, non bastasse questa drammatica realtà, ora il governo si accanisce sui piccoli e grandi proprietari. Insomma, è un insulto alla miseria per Vittorio Feltri in questa polemica sul Giornale. 24 mattino. Allora, sono le 8 e 22 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua dunque a 24 mattino. Quando succedono queste cose, io veramente mi fanno più arrabbiare che sentire la parola spending review. Allora, avevamo un appuntamento con il presidente del Consiglio regionale della Campania, Paolo Romano, del Popolo della Libertà. Perché l'abbiamo chiamato? E perché lui ci ha risposto 10 minuti fa dicendo: sì sì, sono pronto qui, eccomi qua per l'intervista. Adesso il cellulare risulta spento, ma saranno campi elettromagnetici sfigati che ci perseguitano. Allora, lo abbiamo chiamato perché ci sono in Campania tre ex consiglieri, lo ripeto per la terza volta, ex consiglieri, dunque persone che non siedono più in consiglio regionale. Uno dei tre, per la verità, non ci ha mai messo piede. Sono stati invischiati in questioni giudiziarie che se la vedranno loro. Nonostante ciò, la Regione Campania continua a pagare loro lo stipendio. Sono 4.500 euro al mese circa, in parte accantonati per il vitalizio, quindi avranno anche il vitalizio. Allora volevamo capire dal presidente del Consiglio regionale della Campania, Paolo Romano, come mai questa cosa sia possibile in Italia e nella Regione Campania. Questo è, però... Il cellulare risulta spento, 10 minuti fa invece ci ha risposto e va bene, niente, ci dobbiamo accontentare di quello che potrete leggere, lo posteremo su Facebook, non so, un articolo del Mattino o ieri del Fatto Quotidiano che raccontava questa vicenda, lo faceva con Enrico Fierro. E noi, che dire, allora ci concentreremo su cose più serie, se volete. Tra poco, dopo la pubblicità, parleremo del finanziamento ai partiti. perché i rimborsi è uno di quei temi, i rimborsi pubblici ai partiti è uno di quei temi che è sempre in agenda. Sapete che adesso i partiti un po' terrorizzati ne hanno studiate di vario tipo. C'è per esempio il Popolo della Libertà che con Alfano ha annunciato una grande novità, è un nuovo partito in cui rinunceremo a tutti i finanziamenti pubblici. C'è l'UDC che dice ci vogliono solo i finanziamenti dei privati ma defiscalizzati. C'è il Partito Democratico che dice adesso vorremmo dimezzare i finanziamenti ai partiti. Di tutto questo parliamo, insomma qualcosa si muove, ma certo qualcosa poi va fatto. Lo faranno? Che ne pensate? 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, e ne parleremo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità e il meteo. 24 mattino. Su un tema, quello dei rimborsi ai partiti, i partiti stessi sono francamente terrorizzati, possiamo dire così, dalla marea montante anche dell'opinione pubblica molto critica. E allora, riassunto degli ultimi giorni, prima Alfano, Bersani e Casini, no? Il ABC, avevano fatto una proposta che doveva avere una corsia preferenziale alla Camera per cercare di aumentare la trasparenza della gestione di questi rimborsi dopo gli ultimi scandali emersi dai giornali. Proposta che si è arenata dopo due giorni. E allora ecco che i partiti sono andati un po' in ordine sparso, il Popolo della Libertà che annuncia una grande svolta che è ancora un po' misteriosa, di un nuovo partito, di chissà cosa, dice con il segretario Alfano ci fonderemo e ci manterremo soprattutto senza rimborsi pubblici ma solo con i finanziamenti dei privati. L'UDC di Casini dice appoggiamo la proposta che prevede di togliere i finanziamenti pubblici e dare i rimborsi solo dei sostentamento dei privati, magari fiscalizzando appunto gli aiuti dei privati. Ci sono partiti come il Partito Democratico che annuncia dimezziamo di colpo il finanziamento pubblico ai partiti, quello che gli italiani avevano cacciato dalla finestra con un referendum e sono rientrati dalla porta o viceversa per merito dei partiti. Insomma, di tutto questo che succederà? Rimarrà qualcosa di tutti questi discorsi? Ne vogliamo discutere con il segretario dei Radicali Italiani Mario Staderini. Buongiorno e ben ritrovato Staderini. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Ritorna con noi anche l'onorevole Maurizio Bianconi che è vice vicario tesoriere del Popolo della Libertà. Buongiorno e ben ritrovato anche a lei Bianconi. Allora intanto Staderini, lei è come radicali che avete da sempre promosso quel referendum e da sempre dite non ci vogliono soldi pubblici ai partiti. Come guardate con attenzione, con scetticismo, con fiducia quello che propongono i partiti ora? Ma in questo momento credo con curiosità, proprio perché dopo che per 30 anni hanno tutti cercato di far crescere la mangiatoia dei partiti, adesso c'è un florileggio di invenzioni e di sistemi diversi. Faccio un esempio, il sistema Capaldo, quello di cui parla Casini con la defiscalizzazione, vorrebbe dire che un cittadino ti dà 2.000 euro e lo Stato gliene restituisce 1.900, quindi praticamente una partita di giro. Sì, perché la defiscalizzazione a quanto arriva la defiscalizzazione della proposta di Pellegrino Capaldo? Credo il 90%, forse no. 90%, no. Quindi stiamo parlando di qualcosa appunto di numeri all'otto che vengono dati. La realtà è molto semplice, c'è innanzitutto da fare i conti con il passato di cui nessuno oggi vuole parlare. Sono stati incassati un bottino di 1,7 miliardi di euro oltre le spese documentate e nessuno sa dove sono finiti. Sono finiti in patrimoni immobiliari, in operazioni finanziarie, in apparati, e questo credo è la prima cosa che andrebbe chiarita, un'operazione di verità da restituire agli italiani in termini innanzitutto di informazioni, di conoscenze di chi ha approfittato. Infatti ogni tanto li troviamo infatti in diamanti, in cose, in lingotti, sì, no, cioè, voglio dire, si queste si sono le accuse. Si può inventare di tutto. Si sono inventati di tutto e poi le regole nuove, e su quello credo il principio deve essere molto chiaro: non un euro agli apparati dei partiti. Lo Stato deve garantire una serie di servizi, luoghi per assemblee, autenticatori gratis per la raccolta firme, ma soprattutto conoscibilità delle proposte. Penso a quelli che sono gli spazi televisivi, che probabilmente valgono molto di più del finanziamento pubblico in denaro. E infine consentire esclusivamente ai cittadini, e ripeto, ai cittadini, non alle imprese, ai sindacati, alle varie lobby, di poter finanziare la politica intesa come soprattutto momento elettorale. Questo credo che è un principio chiaro che deve passare, altrimenti torneremo sempre a inventarci dei sistemi in cui poi alla fine chi magari prende il 20, il 30% dei voti si va a pappare il 20-30% della torta, quindi con un effetto solo di conservazione delle sistemi. Allora, intanto se volete intervenire, ovviamente il numero è sempre quello 800 24 00 24. Onorevole Bianconi, ci aiuti a capire, non che lei ci debba svelare quello che è nella mente di Alfano e Berlusconi, forse per ora è nella mente solo loro, come, ma che vuol dire faremo una rivoluzione epocale che prevede, tra l'altro, basta finanziamento pubblico ai partiti, ci sosterremo solo con il sostentamento dei privati. Cosa vogliano dire non ce l'hanno spiegato neanche a noi. Lei è preoccupato per questo? No, non sono preoccupato per niente, perché io come amministratore del partito dico solo: ditemi quanti soldi ho e ve li amministro, non mi pongo altri problemi, insomma. Cioè, è tutta una storia che deve in qualche modo finire, perché i radicali hanno ragione da vendere quando dicono che è stato eluso un referendum. Io come amministratore ho ragione da vendere, perché almeno il budget del 2012 lo devo finire, perché ho dei dipendenti. Dopodiché se ne può anche parlare, come sono molto d'accordo di vedere come sono stati amministrati fino ad ora questi soldi, perché c'è gente che oggi fa il puritano, ci si è comprato le case. A chi allude? Ma a nessuno, io dico quello che risulta, lo sapete tutti chi è, quindi non è che... La vicenda della Margherita. Margherita, cioè l'IDV mi pare che abbia qualche problema e altro, insomma. Poi c'è gente che ha tesaurizzato, io francamente li ho spesi tutti, però può darsi che l'abbia spesi anche male, nel senso che pago gli apparati, come dice Staderini, ma da una parte venivamo accusati di avere un partito di plastica, abbiamo fatto un partito vero e ora veniamo accusati di avere un partito vero. Cioè gli apparati, poi lei dice, sono persone, gente sono che lavora, dipendenti, sono dipendenti. Sono gente che viene assunta per fare il suo lavoro, che prende 1.000 euro, 1.200 euro come tutti i dipendenti di qualsiasi organismo. Però, onorevole Bianconi, le chiedo questo, visto che sono spesso citati il Movimento 5 Stelle, poi di questi tempi sono più citati rispetto al passato, loro dicono noi abbiamo tutto trasparente, e per esempio per la campagna che abbiamo fatto a Bologna, dove hanno preso il 9,5%, abbiamo speso 5.000 euro per la campagna elettorale. Cioè un partito come il suo, ma anche gli altri partiti che hanno cifre ben superiori a disposizione, come guardano? Li guardate come dei marziani, oppure li guardate con preoccupazione perché gli italiani capiscono che si può fare anche con molto meno? Guardi, io vengo da molto lontano, ho una certa età e 50 anni che faccio politica attiva, pur lavorando e guadagnandomi la vita diversamente. Se fai un movimento di opposizione, un movimento di protesta contro il dire, ti mantieni. Se devi fare un partito che deve governare, deve avere degli apparati, eccetera, tutto questo cambia. È successo anche alla Lega. Tutti i movimenti antipartito, antipolitica all'inizio spendono poco perché vanno sull'onda. Dopo si assestano e hanno necessità di organizzazioni. Diverso il Partito Radicale, che non ha mai cambiato la sua fisionomia, diciamo. È sempre stato un partito lodevole per le iniziative che ha posto in essere. Io sono stato anche tesserato per un po' d'anni, quindi non è che li disprezzo, li apprezzo moltissimo, però non si sono mai posti il problema del partito organizzato. Io sono un sostenitore del partito pesante, ripeto, vengo da lontano. Poi con che cosa ci si deve mantenere e che fisionomia debbono avere queste organizzazioni se ne può parlare. Su una cosa i radicali hanno ragione: c'è stata un'illusione del referendum. E questo lei già più volte ce l'ha detto. Ma infatti con la franchezza che la contraddistingue, lei dice è vero, abbiamo fregato gli italiani. Hanno fregato, perché io non facevo parte di chi li ha fregati. E fa da 50 anni di politica. Ho preso possesso della carica, ho visto quanti denari andavo a ricevere e ho visto che è una somma cospicua. Vabbè, lei fa da 50 anni di politica, ma ha avuto questa parentesi nella quale dice sì, mi tiro fuori, non ho, lì lì non ho fregato anch'io gli italiani, per il suo piccolo, voglio dire, no? Per come rappresentante della politica. Staderini, vabbè, ma questa ormai è accertata, so che gli italiani si siano sentiti defraudati della volontà popolare espressa, cioè cancellare il finanziamento, poi è rientrato come rimborso, questo lo diamo per assodato, no? Beh sì, sicuramente, ma è un fatto che dovrebbe far riflettere su qual è il vero problema in Italia. Il vero problema oggi in Italia è che la legalità e il diritto non vale nulla, perché sono stati fregati gli italiani, ma è stata fregata anche la Costituzione. Poi un altro elemento, quando si parla appunto, ad esempio il Partito Radicale, giustamente dice Bianconi, non ha scelto di vivere in una maniera diversa, cioè non fare un partito super pesante, super organizzato, c'è un motivo, non c'è nessun problema a pagare gli apparati, è un problema però di riforma della politica. Nel momento in cui un partito, un apparato si vede essere finanziato dallo Stato, non deve neanche andare a cercare il consenso finanziario degli iscritti e dei simpatizzanti, e questo farà sì che farà una politica completamente indipendente da quella che vorrebbero i suoi iscritti, i suoi simpatizzanti, perché tanto poi alle elezioni i soldi arrivano lo stesso. Sistemi, alle elezioni i voti tanto te li fai grazie a un po' di presenza in televisione decise da chissà chi, chissà come. Però Staderini, io una domanda su questo, perché me la chiarisca. Quando noi abbiamo avuto più volte il tesoriere del Partito Democratico, Misiani, ci ha detto che in realtà voi radicali, siccome avete 6 deputati, credo, eletti all'interno del Partito Democratico, prendete dei soldi. Cioè Misiani ci ha detto qui, noi, guardi, i radicali, è vero, fanno tante battaglie, però non dicano che non prendono soldi pubblici, perché io ogni anno verso, credo, 630.000 euro, ma la cifra... Chiariamolo subito. Non sono allora, sicuro, ma è più o meno questo, dice, è diverso al Partito Radicale per i loro deputati che sono iscritti nel nostro gruppo. Allora, chiariamo subito la questione. La differenza tra i radicali e gli altri è triplice. La prima è che dal 94 in poi, cioè da quando c'è stato il referendum che aboliva il finanziamento pubblico, i radicali hanno generalmente dichiarato spese elettorali per una cifra superiore ai soldi che poi hanno incassato, quindi si è trattato di veri rimborsi e non di finanziamento pubblico. Il caso a cui fa riferimento lei è quello delle ultime elezioni, in cui, se ricordate bene, noi non siamo stati presenti con la nostra lista delle elezioni. Siete eletti all'interno del PD. In quel caso, noi, uno, non siamo titolari di rimborso elettorale, e due, nel caso di cui faceva riferimento Misiani, parliamo innanzitutto, ecco, ha detto bene lei, 600.000 euro l'anno, non stiamo parlando di 180 milioni che prende Misiani come PD, si tratta di un accordo politico nell'ambito del quale c'è anche una cifra economica, lo facevamo anche nel 96. Cioè, l'accordo politico, vi danno 630.000 euro l'anno. Certo, che non è legato al rimborso elettorale, nel senso che il PD ce lo deve dare comunque, sia se avesse preso il 100% dei voti degli italiani, sia se avesse preso il 0%. Sia se si cancellasse di colpo il finanziamento ai partiti. Diciamo. Allora, sentiamo Maria da Roma, la prima ascoltatrice, ci ha chiamato l'800240024. Maria, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Io dico solo una cosa, perché non li cacciamo tutti e facciamo come in Francia, che prendiamo solo una persona e cacciamo tutti questi parassiti, magnaccia che non finiscono mai, che vanno lì soltanto per riempirsi le tasche, ma non per fare il bene del popolo. Ma Maria, scusi, che vuol dire prendiamo una? In Francia mica c'è una persona che comanda, cioè mica c'è il duce. Però noi leggiamo un presidente di consiglio che comandi con tipo presidenziale. Che non abbia tutti questi partiti che concorrono, che vogliono soldi, che poi prendono soldi, fanno il giornale, fanno i comitati e prendono soldi sempre da volontà. Hanno soldi in deposito e a noi ci fanno pagare l'ICI, ci fanno pagare l'IMU, ci fanno raddoppiano la Mondezza, raddoppiano tutto. Io, Maria, guardi, la posso seguire sul fatto dell'arrabbiatura, lo sdegno di chi ruba. L'idea, mi scusi, e questo posso capirlo, come tanti italiani, però l'idea di dire cancelliamo tutti i partiti, diamo il potere a uno, l'abbiamo già vista, ecco, insomma, magari meglio non fare un remake, che dice? Meglio non... Della re- Repubblica proprio dell'Italia e non una democrazia con tutti questi mille partitini che poi ogni giorno se ne sveglia uno e ne fa un altro. Ah vabbè, quello sì, mille partitini, su questa perfettamente quello, ragione. E poi prendono la sovvenzione e fanno un giornalino, io ho visto che c'avevo quello de Mastella che ha fatto il giornale, prendeva tanto, quell'altro se fa un altro giornale prende tanto. Vabbè, lei è molto avvelenata, no, ma posso capire, una base di avvelenatura è condivisibile. Vorrei sentire Fabrizio da Cuneo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'opportunità. Io credo molto sostanzialmente che tocca mettersi a pensare e di rifare qualcosa di nuovo e di serio. In questi casi non mi sembrano ci siano le prospettive, perché nell'ultimamente questa metafora non si è mai visto un tacchino festeggiare il giorno del ringraziamento. Voglio dire, se si continua... Sì, ma non crede che adesso, voglio dire, c'è un clima anche in cui poi dopo per forza Grillo prende il 7, 8, 10, 15%. Onorevole Bianconi, cioè, questa idea che i partiti, come dice Fabrizio Acunio, no, non ci crediamo, e guardi che molti sono scettici perché l'abbiamo sentita tante volte. Cioè questa volta è l'idea che se non fate qualcosa sul tema del rimborso, poi dopo qualcos'altro succederà. Io temo che il problema sia più vasto, comprende anche quello che dice lei. Io penso che questa ondata che è stata montata direi da mesi e mesi e sui quali sicuramente i partiti hanno le loro notevoli colpe porti a delle conseguenze non buone, ma che ormai sia irreversibile. Cioè io non ritengo che il sistema si possa salvare con qualche pannicello caldo come la regolamentazione del finanziamento dei partiti, una pseudo nuova legge elettorale che dovrebbe far scegliere i candidati, in realtà se si va sulla via che abbiamo intrapreso non consentiva più neanche di scegliere il primo ministro e il governo. E come si risolve? Io penso, cioè, che ormai la deriva sia praticamente non si ferma più. E quindi qual è la sua cura da cavallo? Diciamo? La mia cura da cavallo sarebbe intanto ricominciare a restituire il potere al popolo, veramente farlo votare e smettere di avere imposizioni da un signore che non ha eletto nessuno e che è stato nominato da uno che è stato nominato da un Parlamento di nominati. Cioè il sistema si salva rispettandolo. Cioè, ma chi si riferisce al Premier Monti? Certo che mi riferisco al Premier Monti, che è sostenuto da un Parlamento di nominati ed è stato unto da un Presidente della Repubblica eletto da un nominato da un Parlamento di nominati. Non è che prima però andava con adesso non prima col governo Berlusconi, ma nel senso con i nominati di prima andasse meglio, ecco. Ma almeno l'avevano eletto il popolo. Ah, questo sì, però arrivato dalla luna e ci hanno detto che ci deve riempire di tasse, i partiti obbediscono. Sì. E un Presidente della Repubblica eletto da un Parlamento di nominati, perché siamo su questo punto qui, ce l'ha proposto e noi l'abbiamo accettato. Quindi se si violano le regole della democrazia e se non si pensa e si pensa che i partiti siano soltanto dei cavalieri serventi di un regime che fa quello che vuole, io penso che la deriva sia assolutamente irrefrenabile. Sì, ma lei dipinge come se la situazione si sia creata di crisi da 6 mesi, invece forse questo è il prodotto di una situazione. Questo è l'epilogo, dottore, è l'epilogo di una serie di errori, di sbagli, tutto quello che vuole, però l'epilogo è questo, e quindi io non penso che ci siano possibilità di risollevarsi a breve termine. Allora, tanto è vero, ce l'ha detto quella signora, guardi, sì, quella sì, signora nella sua semplicità ha fatto un discorso pericolosissimo, ma quello è il discorso verso il quale purtroppo la gente incomincia a indirizzarsi. E infatti ieri anche Giorgio Napolitano ne ha parlato. Allora, l'ultima parte del 24 mattino, andrei a Bologna da Luciano. Luciano, buongiorno. Mi chiamo Luca, ma non importa, buongiorno a voi. Sì, buongiorno. Intervento molto semplice, questi partiti quando si tratta di tassare gli italiani sono d'accordissimo, ci mettono un secondo a votare, quando si tratta di togliere dei soldi dalle loro tasche, acquisiti indebitamente, e come stranamente non riescono a mettersi d'accordo. E questo è molto paradossale, perché così nessuno di loro ha la responsabilità. Io ho fatto una legge, no, io ne volevo un'altra. Sono bravissimi. Va bene, dice così. Non avevo avuto le travegole, Luca, grazie, ma c'è anche un Luciano da Bologna. Luciano c'è? Luciano? Buongiorno, eccoci. Dica. Gli italiani hanno già votato per il referendum e avevano già espresso la loro opinione. Io condivido questa linea, per cui il finanziamento dei partiti solo ed esclusivamente da privati, oppure facendo cene di beneficenza, raccogliendole nei banchetti, facciano loro, ma contemporaneamente alzare il livello di attenzione per far sì che questi finanziamenti non arrivino da malavita organizzata, mafia, camorra e andrangheta. Quello alzare, bisognerebbe già che siano ben alti i controlli adesso. Grazie Luciano, ma guardi, hanno provato anche col 5 per 1000, si era provato, date il finanziamento al 5 per 1000, poi avevano scoperto che manco i partiti, manco i parlamentari si fidavano, non lo so, manco i parlamentari di fatto col 5 per 1000 destinavano ai propri partiti i soldi. Staderini, Grillo deve, Beppe Grillo sta spaventando, è il prodotto anche di questa deriva dei partiti, che Bianconi dice per esempio è legata anche al fatto, come epilogo del fatto che abbiamo scelto Mario Monti, una persona che è catapultata dalla luna qui. Ma su quanto riguarda Mario Monti, ho sentito Bianconi dissento completamente con lui su un fatto innanzitutto, perché prima di Monti c'è la democrazia in Italia, nel senso abbiamo appena detto che un referendum contro quello che dice la Costituzione è stato fottuto dai partiti, beh allora attenzione a rivendicare che c'è la democrazia. Detto questo, Monti è un incidente positivo proprio nell'ambito della partitocrazia, e se fosse per una definizione che dovrei dare come radicale, io sarei a sostegno del governo Monti, pur sapendo che sta avendo grandi limiti rispetto al coraggio che avrebbe potuto e dovuto avere, e all'opposizione di ABC, proprio perché è la partitocrazia che cerca di salvare se stessa, e questo riguarda anche Grillo. Grillo oggi riesce ad avere forza e crescita per il semplice motivo che viene messo a confronto anche dagli stessi cittadini proprio con ABC. Certo. Se fosse confrontabile ad esempio con chi come Radicali è stato per anni, e gli italiani lo sanno, andando in televisione con i cartelli al collo chiedendo i soldi, che ha vissuto in una maniera diversa e che ha cercato anche di puntare sulle riforme piuttosto che sugli eletti, perché in questo momento Grillo che sta facendo? Sta diventando una macchina da eletti, cioè che elegge persone, e devo dire che tra i tanti eletti che ha non mi sembra che chissà cosa abbiano fatto, magari bravi, dignitosi. Beh, però ha in qualche consiglio regionale, qualche consiglio comunale. Sì, per ora, ma io come Radicale posso dire che ho un consigliere comunale praticamente in Italia, a Milano, Cappato, che sta facendo una differenza in termini di rottura con il sistema, e in Parlamento quei pochi parlamentari, se si sa qualcosa di quanto spendono deputati in Camera, in palazzi del Senato, grazie, si sa, grazie a Bernardini. Morale della favola, io credo che se ci fosse la possibilità di confrontare, di fare confronti diversi, allora tutto cambierebbe. E vabbè, però in poi quelli sono i voti che decidono, cioè si vedrà le urne. Ma guardi, i voti si fanno in tante maniere, e l'Italia purtroppo non consente oggi agli italiani, credo, di conoscere. Faccio un esempio, noi ieri abbiamo fatto una grande bella marcia sull'amnistia in cui volevamo parlare di giustizia, cioè la giustizia che non funziona. E diciamo nessuno in questa ottica cerca di affrontarlo. Ma io vorrei sapere, onorevole Bianconi, mi dà una definizione sua di Beppe Grillo? È un fenomeno naturale Beppe Grillo. Beppe Grillo è la valvola di sfogo di un sistema che non funziona più. Si chiama Beppe Grillo perché è venuto fuori lui. Se ne viene fuori un altro, ce ne sarà un altro. È una cosa più che comprensibile. Io ho visto ieri che è stato demonizzato. Secondo me c'è un tentativo di riportare tutto all'ordine. In realtà questo è un sistema che vuole la sua valvola di disordine. Io non lo valuto un disordine, ma lo capisco che il Presidente della Repubblica lo possa valutare come una cosa distonica, di disordine. È naturale che ci sia Beppe Grillo, ce ne saranno anche molti altri in Italia. È una cosa che a me non meraviglia, insomma, non è poi una novità che nei periodi di crisi, pensiamo a come è nata la Lega, pensiamo all'uomo qualunque, pensiamo, c'è tutta una storia rispetto a questa fenomenologia. Il problema che mi pare grave è che non si può mettere tutto sullo stesso piano. Ricordo a Staderini che ci furono anche altri due referendum, uno che aboliva, e mi pare che fossero coevi, però non ci giurerei, cioè della stessa volta, uno che aboliva il Ministero della Sanità e uno che aboliva il Ministero dell'Agricoltura. Che è diventato delle politiche agricole. Ci siamo ritrovati, lo stesso il Ministro della Sanità e il Ministro delle Politiche Agricole, insomma. ho capito, lei ci sta dicendo che gli italiani vengono fottuti con l'acqua, cosa succede? Cioè, sta dicendo che gli italiani vengono fottuti periodicamente. Periodicamente quindi... il sistema si ricompone secondo il suo asset. Ho capito, lei Bianconi lo dice, si ricompone secondo il suo asset. Io dico gli italiani vengono fottuti, cioè è un modo diverso di dire le cose, o no? La cosa non cambia. Volevo dire però che non c'è paragone fra questa lesione, che è una lesione, e il fatto che ci sia una lesione per la quale oggi abbiamo un Presidente del Consiglio che non si è mai neanche presentato a un'assemblea di condominio e determina i destini dell'Italia, proprio con la benevolenza di quella BCE che sarebbe un Parlamento di nominati. No, ma certo, ma lei su questo punto, anche se questa è una parentesi, in ogni caso io vi ringrazio, Mario, una parentesi nel senso quella di Monti, Mario Staderini, segretario dei Radicali Italiani, e l'onorevole Maurizio Bianconi del Popolo della Libertà. Ci troviamo domattina. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, a tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.